Siamo pronti per festeggiare i 10 anni di Open Door. Questo è un evento assolutamente molto importante per l'Accademia di Belle Arti di Bologna, che è un'esperienza che da una parte è festosa, ma nello stesso tempo è altamente formativa, che raccoglie praticamente le attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione che si svolgono all'interno dei nostri percorsi di studi. Inoltre è un'occasione, è un'opportunità unica per le studentesse e gli studenti per poter proprio esporre le loro opere al di fuori delle mura accademiche e quindi proprio, come dire, confrontarsi, sperimentare quelli che sono veramente i problemi concreti del mondo artistico. Devo dire che in questi 10 anni si è evidenziato anche che il valore aggiunto di questo progetto sta anche proprio nell'aver creato una rete e quindi la, come dire, collaborazione di varie, differenti realtà sul territorio che hanno tutte però contribuito alla formazione dei giovani talenti. E io per questo impegno proprio desidero proprio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato. Diciamo che l'evento pulsante, chiamiamolo così, il cuore pulsante di Open Tour è la sezione dedicata a giovani talenti in galleria, che è un grande evento diffuso quest'anno ancora più ampio su 28 fra gallerie e spazi privati. Questo evento a cura di due professori, la professoressa Carmen Lorenzetti e il professor Beppe Lufrano, e che vede soprattutto anche l'importante collaborazione delle gallerie d'arte moderna e contemporanea Confcommercio ASCOM di Bologna, che poi si inaugureranno questa mostra appunto diffusa, si inaugurerà il 20 pomeriggio, quindi 28 gallerie che si apriranno, e poi il sabato 22 ci sarà la premiazione di coloro che saranno selezionati da una giuria, proprio il famoso premio Art Up, che è stato ideato dalla Fondazione Zurkelli, che da sempre, con cui da sempre collaboriamo, possiamo considerarla per l'Accademia una compagna di viaggio e di avventura. Da domani abbiamo poi l'apertura invece di un'altra esposizione ugualmente molto importante, che è quella di Open Show, quindi un'esposizione di tutti i lavori degli studenti e delle studentesse di fine anno. E questa esposizione sarà praticamente in tutta l'Accademia, nelle stesse, come dire, aule dove vengono prodotti i lavori, le opere d'arte, quindi uno potrà vedere, cioè la città potrà vedere sia dove i lavori fatti, ma anche dove vengono realizzati. E questa mostra, queste mostre, queste esposizioni che sono curate dagli stessi docenti di indirizzo e non solo dell'Accademia di Belle Arti. E quest'anno si estendono anche nella nostra sede qui vicino, la sede del Guasto, che è stata da poco ristrutturata e dove si aprirà fra pochi mesi la nuova biblioteca. Questo Open Show è estremamente importante, ma ancora ci saranno tantissime altre iniziative in tutta la settimana in Accademia. Oggi stesso, non solo in Accademia, ma anche fuori dall'Accademia dei progetti speciali, oggi stesso si inaugurano due mostre, una alla Galleria Capannun a San Lazzaro, che è una mostra che è la seconda edizione del premio per la curatela, ideato da Marinella Paderni e Marco Ghigi, che è appunto il direttore di questa galleria. E la mostra appunto si chiama Ciò che esiste là dove non si vede, e che è praticamente un'esposizione curata appunto dai vincitori, che sono dei vincitori delle studentesse del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte. Ecco, mi sono dimenticata. tratta di dire, questo è molto importante anche per il pubblico, che in tutti questi giorni ci saranno sempre delle visite guidate in Accademia per vedere appunto Open Show, e che sono curate anche queste dal nostro Dipartimento di Comunicazione Didattica all'Arte. Dicevo, oggi un'altra inaugurazione importante alla Fondazione Gramsci Emilia Romagna, la mostra Poster for the City, manifestipolitici.it, a cura di Danilo Danisi e Carlo Branzaglia, dove appunto saranno visibili gli ultimi manifesti che sono stati prodotti in occasione delle ricorrenze istituzionali del Comune di Bologna. Questo grande progetto che stiamo portando avanti da 10 anni, che ha visto già una mostra nella Sala d'Ercole a novembre, e che acquisisce un, come dire, anche qui un valore aggiunto, perché tutti questi manifesti verranno raccolti dalla banca dati proprio della Fondazione Gramsci Emilia Romagna. Quindi un'idea ancora di mantenere e lasciare ai posteri questo importante progetto. Ci saranno degli appuntamenti speciali, delle sorprese durante questo show? Beh, le sorprese ci sono sempre e sono sempre tante. Sicuramente vorremmo anche evidenziare, ma questo appunto adesso non lo voglio dire, però vorremmo anche evidenziare tutti i premi che sono stati vinti quest'anno dai nostri ragazzi, dalle nostre studentesse, dai nostri studenti, premi a livello nazionale e internazionale. Lo scorso anno Alexander Pecto, in seguito a questo, la possibilità di esporre quelle che erano le sue realizzazioni, è stato poi dopo coinvolto all'interno dei progetti della G7 come galleria. Qual è l'obiettivo quindi finale, complessivo di Open Show? Non tanto direi di Open Show, ma quanto dei giovani talenti in galleria, perché è in giovani talenti in galleria che espongono appunto nelle gallerie, e sono soltanto ad esporre, questo mi sono dimenticata di dirlo, però è molto importante, gli studenti dei bienni e dell'ultimo anno dei triennii, perché proprio questo, come dire, questo progetto è anche proprio, come dicevo, un'idea di avvio verso la professione e la professione dell'artista, no? E quindi secondo me dare uno spazio agli studenti e alle studentesse è proprio dare un passo in più verso appunto la loro carriera artistica, perché si confrontano con il pubblico che va a visitare le gallerie, si confrontano con il mercato, no? E quindi questa è un'esperienza assolutamente molto molto molto utile, e come dicevo prima anche estremamente formativa, che si può fare soltanto al di fuori appunto dell'esperienza di studio che si ha qui in Accademia. Ecco perché noi promuoviamo moltissimo, l'Accademia promuove moltissimo quello che viene definito un sistema formativo integrato, cioè una formazione che non viene soltanto, come dire, data all'interno appunto dell'esperienza accademica, degli studi accademici, ma esce e incontra la realtà e tante istituzioni e tante realtà pubbliche e private che diventano appunto realtà formative. Esiste un filo conduttore o comunque un tema attorno al quale ci si è concentrati, gli artisti si sono concentrati per realizzare le loro opere? È interessante anche questo, perché proprio avviene come avviene normalmente nella situazione quando ci sono mostre nelle varie gallerie. Nelle varie gallerie ci sono stati dei professori o dei critici d'arte che hanno curato la mostra, e quindi si sono confrontati insieme agli studenti, e quindi ogni galleria ha una proposta curatoriale differente, non c'è un unico tema, perché sennò l'avremmo appunto in questo senso anche limitato. Invece proprio viene costruito insieme ai galleristi, ai curatori e agli artisti che espongono.